Ma stai facendo dei conti assurdi, che solo uno che non sa cosa pensare pensa a queste cose. Cioè sto mettendo insieme le ore che io ho vissuto a casa mia dove abito, tra la prima casa e questa, e le ore che ho passato in laboratorio. Le ore che ho passato in laboratorio sono di gran lunga superiori a quelle che ho passato in famiglia, a casa, per dirti, no? Per dirti com'è un lavoratore, oltre al grande sacrificio che fa lavorando, strapazzandosi la persona, il suo fisico, la sua mente, eccetera, sei anche costretto in un certo senso, tra virgolette, ad abbandonare in un certo senso anche l'attività familiare, se non solamente in quelle ore che tu sei a casa, perché uscivo al buio e rientravo al buio, cenavi, ti coricavi, per dire, e domani mattina di nuovo da capo. Ecco cosa ti voglio dire, tutte le ore che ho passato lavorando sono di gran lunga, ma di molto però, superiori a quelle che ho passato in famiglia. Dunque in un certo senso ti porta anche a trascurare la famiglia, già lo so. Ecco, gli artigiani che hanno fatto vivere l'Italia, andare avanti l'Italia, sono gli artigiani e le piccole imprese, mica le grosse industrie, no? Che tanto gli danno il soldo dello Stato, tipo la Fiat, l'Ilva, la Saras, eccetera eccetera. Quelli, quando c'è qualcosa, subito dice dobbiamo licenziare, lo Stato gli dà i soldi, mica li danno a te i soldi se c'è un operaio e devi licenziarlo perché non ce la fai a tenerlo. E così è l'Italia, chi ha mantenuto l'Italia? Non hanno capito questi imbecilli che sono al governo, ti vedono soltanto tu sei il padrone, lo sfruttatore è quello lì, cazzo. Non pensano tu quante ore di lavoro e quanto cosa hai tolto alla famiglia per lavorare dalla mattina alla sera. Io abbastanza, ma mio padre, cazzo, può dire molto di più di me, cazzo, faceva 12 ore al giorno lui, cazzo, non aveva un giorno di vacanza, di libertà. La sua cosa era la domenica quando c'era la squadra di calcio, boh, l'unico giorno libero. Sì, ma era così, Roberto. Guarda, io lo so, tu non hai idea di quante volte, siccome io ho lavorato sempre anche con questo sistema, no? Siccome io oltre a fare infissi, serramenti, eccetera eccetera, ho fatto anche molti mobili, anzi diciamo che la mia attività principale era più che altro fare mobili, mobiliere, e dunque lavoravo anche dietro il disegno. Tu non hai idea, tante volte arrivare stanco a casa, cenavi, e poi cosa dovevo fare? Mettermi seduto a tavolino per fare il disegno di quel lavoro che avrei dovuto fare, o di quel mobile che avrei dovuto fare, tante volte anche in doppia coppia, in modo da averne una lui, il cliente, e una io, in caso me l'avessi ordinato, poi costruito, per dire, no, sicché facevo anche le ore notturne tante volte, a rimanere anche oltre la mezzanotte, magari pensando, facendo calcoli, facendo conteggi, e soprattutto disegnando il mobile che avrei dovuto presentare o costruire, con il rischio anche che poi, dopo aver fatto tutto questo lavoro, magari quello non te lo ordinava nemmeno, lo rifiutava. Fortunatamente magari quasi sempre me l'hanno dato il lavoro, però tante volte, nonostante le ore perse, sia per preventivi, sia per disegni, sia tempo perso di discussioni con la persona stessa, tante volte il lavoro non te l'hanno dato, per dire, anzi qualcuno qualche volta mi ha anche tradito, intendo a livello di clienti, nel senso che io gli facevo il disegno e poi magari lui col mio disegno fatto gratis magari si rivolgeva anche ad un altro artigiano, come è successo, e per puro caso ho scoperto che quello stava facendo il lavoro per 50.000 lire in meno, 50.000 lire in meno di quanto gli avevo chiesto io, però quello stava facendo il lavoro col mio disegno, e questa prostituta di donna, infatti l'avevo telefonata e gliene ho cantato quattro di vergognarsi, che non sono cose da fare, che i lavori si discutono. Io gli avevo presentato un preventivo e dice: ma lo fate 50.000 lire in meno, e che fai? Allora io devo fare, cosa sono 50.000 lire in un mobile che magari ti costava allora con la lira 1.200.000, 1.300.000 lire? Bastava discuterne, però lei con la, col mio lavoro, che io gli ho fatto a lei un disegno professionale, tra l'altro, non uno, uno schizzo, ma un disegno professionale, si è rivolta ad un'altra persona e gli ha ordinato il lavoro, ma non perché mi interessava che non me l'avesse dato, ma l'azione che ha fatto col mio lavoro si è rivolta ad un'altra a farselo fare. Ecco come, Robè, tu immaginati. Non dirlo a me, cacchio, che mi capita tutti i giorni una storia del genere, lasciamo perdere. Ok, tu ora un pochettino più professionale, più manuale, però qua vengono a farsi giro. Quanto mi prendi per fare quello? Cioè, poi vanno all'altro, quanto ti prendi? Chi costa di meno? Tipo le patate, dove costano di meno, vai, te li compareggi. Non guardano la professionalità, infatti io con la gente neanche ci fa parlare, proprio li, li evito. Dai. Ok, vai Claudio, sono allontanato magari. Sì, ma per dirti no, come stanno le cose, ma quando mai tu sei così bastarda come donna, che vieni da me, mi chiedi un disegno, te lo faccio, gratis, ti spiego il tutto e poi ti rivolgo a un altro, a un'altra persona col mio disegno, ti rivolgi per farti fare quel, quel lavoro lì. Ma allora sì, questa è una grande disgraziata, infatti ne ha giocantato quattro quella donna, io penso che ancora oggi se ci pensa si, si vergognerà da sola, sempre che sia ancora viva questa persona. Per dirti no, perché sono capitato una volta, c'era una famiglia lì in via Lomberto, c'era tanti anni fa, e tra l'altro erano amici miei anche, no? Entro lì e ti ho visto questo armadio in fase di esecuzione. Fratto mio, è un armadio del genere, me l'hanno chiesto a me. Questo non sapeva niente, quindi mi negava il disegno, ma questo è il disegno mio, questo è il disegno che ho fatto io e l'ha dato a te. E poi non so come sia finita con questa persona, quello ormai stava facendo lavoro, sicuramente gliel'ha completato e gliel'ha portato a casa. Per dirti no, quanto è vigliacca la, la, la gente, se invece a quella gli avessi detto il disegno vuoi, ecco dammi 100 euro, 100.000 lire per questo disegno, probabilmente sarebbe ritornata da me. Invece io gliel'avevo e li facevo a tutti gratis, disegni professionali, perché io grazie a Dio riesco a fare anche i, i, i disegni dei lavori che ho sempre fatto o robe. Sono entrato? Sì, riprendi qua, riprendi. Ma quello, quello è normale, no? Non te lo devo segnare io, purtroppo la gente è fatta così, cioè quanti amici miei artigiani, no, che sono preventivo, poi sono andati da altri, funziona così. Giulio, io rientravo a casa nel periodo estivo, quante volte abbiamo parlato, uscivo alle 5 e mezza, alle 6 del mattino e rientravo a casa alle, alle 6 di sera, d'estate, alle 5, alle 6 di sera, ok, molto di fame, cracco molto perché ci avevo tantissima responsabilità e mi portavo le relazioni a casa, hai capito? Io mi facevo tutta la contabilità di cantiere a casa, a casa. Casa vuol dire a casa, che mangiavo in fretta, non entravo qua nella stanza, vedi che c'era la scrivania libera, ce n'era un'altra prima di vabbè, quella che hai fatto tu prima di aggiungere l'altra, piccola, e mi mettevo, mi facevo relazioni, tutto stavo sino anche a mezzanotte, all'una di notte, infatti quando io poi consegnavo le relazioni prima degli altri, relazioni toste, toste, perché c'è nel, c'è, c'è stoccaggio di fanghi, c'è, guarda, non ti dico che cosa c'è, che cosa, da diventare pazzi, da diventare pazzi, me li facevo a casa, e quando io consegnavo, il dirigente mi diceva, guarda, hai già consegnato, gli altri referenti, come mai ancora non l'ho consegnato? Noi stiamo lavorando, arrangiatevi, come mai lui ce la fa e voi non ce la fate? Perché me li portavo a casa, me li facevo a casa, capito? Loro li facevano durante l'ora di lavoro, e quindi non ce la facevano mai, non erano mai al mio passo, mai e poi mai, quindi buttate ore e ore e ore di sacrifici per stare tranquillo e sereno, capito? Quindi ti ripeto, ribadisco che tra me e te c'è solo la diversità di età, ma per il resto abbiamo fatto, ma abbiamo fatto tanto, che oggi a spiegarlo alla gente che non ha gana di far nulla, che vivono così tanto per vivere, non è una cosa bella, Giulio. Purtroppo è così, io purtroppo ho vissuto quella vita lì a livello lavorativo, perché la prima cosa che mi raccontava, mi diceva sempre il signor Corda, il titolare della Salda Legname allora, mi diceva: Giulio, tutte le volte che deve fare un preventivo vieni a vedere il materiale che abbiamo, perché è inutile che tu magari fai un materiale con un determinato, cioè un preventivo con un determinato materiale, poi magari vieni qua e non lo trovi. Siccome io mi fornivo sempre dalla Salda Legname, anche perché era il grossista più preparato e più fornito per il tipo di legname eccetera, soprattutto per la qualità del legname, e soprattutto dice devi informare dei prezzi, perché io non è che posso avvisare tutti giornalmente, magari se i prezzi cambiano, variano, purtroppo è così. E allora uno veniva, ci chiedeva un lavoro, una cosa di fasi, cos'era? Telefono alla Salda Legname, ce l'avete questo materiale? Sì, vieni a vederlo. Andavi, perdevi quell'ora di tempo, magari andavi a controllare che il tipo di materiale era, poi chiedevi i prezzi, facevi il preventivo, eccetera, eccetera, facevi anche il disegno, alla fin fine, capita, posso capire che non mi accetti un preventivo, posso capire, ma se ti faccio un disegno e tu puoi, capita, lo presenti ad un'altra persona, che quello fa direttamente il lavoro dietro il mio disegno, non va bene nella maniera più assoluta. Sia un grande vigliacco, sia una grande persona scorretta, infatti chi sa bene, ne ha giocato 4 questi a livello di denuncia, ma era al telefono, per cui non mi interessava. Poi in quel momento io non ero arrabbiato, non capivo nemmeno quello che le stavo dicendo, però io penso che l'abbia capita abbastanza bene questa bastarda di donna, che non la posso vedere se è ancora viva. Avanti Roberto. Sono rientrato. Diciamo, a te sarà un caso unico, uno dei pochi, ma a me me ne capitano decine e decine di gente, che poi ci sono scorretti anche colleghi molte volte, pur di prenderti il lavoro, cacchio, ti tirano fuori. Infatti io gli ho detto, dico sempre a chi viene da me, noi non siamo economici, non siamo cari, trovi gente più cara di noi, però ho detto, ne trovi molti, ma molti di più di quanto ti immagini, le persone ti fanno il prezzo più basso di quello che ti faccio io, però tu devi mettere a confronto la parità di materiali e di qualità di lavoro, perché io, cacchio, posso bleffare in tutti i modi, lo dice sempre, babbo diceva sempre, il carrozziere è il mestiere dove si può bleffare più di tutti, perché io anziché raddrizzare ti do 2 colpi e ti riempio di stucco, anziché usare, per dire, dallo stucco quello che costa 30 euro al baratto, ti uso quello da 10 euro, trasparenti, fondi, anziché usare quelli ecologici che costano più del doppio di quegli altri, di mezzo il costo di lavoro io, da 200 lo posso fare a 100, 120 diciamo come prezzo, e tu cattami quello mi ha fatto, cioè sì, ma non ti sto dando la stessa qualità di materiale. E infatti quando dico ti do un paio di nomi di carrozzeria, dico vai di lì e ti fa fare un preventivo e poi mi metti a confronto di prezzo, così possiamo competere. Però se tu vai a chi ti lavora in campagna o quelli che hanno gli operai e non sono assicurati, che non si pagano le tasse, eccetera, eccetera, a quel punto io non posso competere. E la gente purtroppo adesso, c'è anche crisi, però c'è gente che viene a me a farsi preventivo, riesce a farsi dare più soldi, perché a me mi riconoscono insieme ad altri pucchi una tariffa diversa, perché abbiamo delle spese superiori, ed è logico che sia così, e poi andare a te capricci in giro, così non va bene. Però purtroppo mi capita a me, non è che li puoi vietare, c'è gente che se li fa pagare preventivi, io sino adesso non ho mai fatto pagare a nessuno, però ci sto un po' più con l'occhio attento quando succedono queste cose, quando se c'è l'assicurazione al perito gli dico fattura, se no dagli il minimo di mercato, e alla fine già tornano. Sì, vabbè, ma in effetti è così. Io addirittura quando gli facevo un preventivo, io gli scrivevo per filo e per segno tutto quello che avrei dovuto fare e con quale sistema avrei dovuto fare e con quale tipo di materiale. Invece la gente cosa fa? Tante volte, magari a persone anche ignoranti, le fanno preventivo magari con un prezzo un po' leggermente più basso, poi quando gli fanno il lavoro, che sa che mondezza le fanno o che mondezza di materiale gli mettono. Invece io proprio per filo e per segno gli specificavo tutto, legno di prima scelta, verniciatura di questo tipo, ferramenta di quest'altro tipo, tutto, lei anche nel contratto, quando poi facevo anche il contratto, anche lì glielo specificavo, in modo che non ci fossero stati mai dei ripensamenti da parte di nessuno di questi clienti, in modo di dire, ma tu mi hai promesso una cosa e tu invece me ne stai facendo un'altra. No, io ti ho scritto quello e quello ti faccio, non ci sono problemi assolutamente, e io sono onesto, sono serio. Ma tu mi hai chiesto di più? Sì, ti ho chiesto di più. Se vuoi ti cambio materiali, però ti scrivo sotto la tua responsabilità e su richiesta di quel genere di materiali, allora va bene. E sto dicendo, vabbè, 50 anni di lotta continua sono stati, guarda, perché io, ripeto, ho imparato in un'azienda dove si potrebbero considerare i professori della falegnameria, e dunque io sono nato con quel sistema, a parte il fatto che sono anche pignolo personalmente in fatto di lavoro eccetera, per cui non ero abituato e non mi sarebbe mai piaciuto fare un lavoro mal fatto alle persone, perché io ho sempre pensato che il cliente mi dà da mangiare per tutta la vita, se io lo tratto bene ritorna, se non lo tratto bene, se è intelligente ritorna, se non è intelligente vuol dire che va a cercare qualcuno che fa per lui, cioè un pellegrino, poche parole, del mestiere, tutto lì. Avanti Claudio. Infatti molti non specificano niente, ho visto preventivi dove totale corpo cosa? Scrivimi che cosa, qual è cosa mi stai mettendo, cosa devi fare, cosa non devi fare, capito? E molti sono così. Capitava anche a me a volte nelle relazioni, perché i preventivi sono preventivi, ma la relazione che io facevo mensile dei lavori che venivano effettuati dovevo scrivere quello che è stato fatto, tipo un rapportino, capito? Devi scrivere tutto perché l'azienda te lo chiedeva, ma hai dato 16 ore di lavoro a Leoni, ok, che cosa ha fatto in queste 16 ore, in questi 3 giorni, perché l'hai quantificato in 3 giorni di lavoro e hai dato 16 ore, che cosa ha fatto? E devi specificare tutto quello che aveva fatto, capito? Tutto quello che aveva fatto, sfruttamento, smaltimento, ripristino, tutto devi scrivere, e così devi, è chiara la situazione, per chi deve anche pagare, capito? Ma quando tu mi scrivi, portare ore lavoro 20, armadio, ciante, bim bum bam, totale accordo, tot, non funziona così, in tutte le cose, perché io con Roberto ci frequentiamo sempre, l'ho visto fare preventivi, so cosa scrive e cosa non scrive, quindi è chiaro che devi fare le cose fatte bene, perché il cliente deve sapere che cosa stai mettendo, cosa stai facendo, non i crimini così a cura di scimmia, come si dice, no? Vai Roberto. Sì, vabbè, facciamo altro un attimo Antonio, però io adesso devo salutare e devo fare cosa, dai, ci sentiamo magari domani mattina stasera, non credo di rientrare, dai, ciao Claudio, ciao Giulio, una buona chiacchierata, ci siamo fatte tutti insieme, ciao Antonio, dai, prosegui Antonio, aspetto i saluti e poi vado via, ciao. E cappa. Ciao Robè, ce la risentiamo alle prossimine, avanti Giulio. Ok, ciao Robè, sì, abbiamo fatto una bella chiacchierata anche stasera, stamattina l'abbiamo fatta parlando di tecnica elettronica e stasera di altre cose altrettanto importanti, anche di più, perché sono argomenti che della vita che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo ancora oggi. Bene, ciao Robè, grazie per la chiacchierata, salutoni, a risentirci, dai, vai Claudio. Ciao Robè, ovviamente ci vediamo lunedì, buona serata, grazie del consiglio di tutto, infatti sono argomenti che si possono parlare, si può chiacchierare del più e del meno, ricordando quello che abbiamo dato, quello che abbiamo fatto e quello che c'è ancora da fare, perché ce n'è tanto da fare. Avanti Anto, a vista cosa dirai, in Burigada e già mangiata. Cosa vuoi a mangiare una pizza? Non mi vuoi nulla, no? Tre agi umiliati da cosa? Via Cazzaretta, dall'amico, da Obelix. Ti stavo dicendo, così nel nostro settore, un rompimento di balle che non si dice, ma quello me la dà così, ma quello va con Martinandi. C'è ancora un poco del centro. Ci sono stati 5 metri e non ne abbiamo fatto uno. Ancora poco ci dobbiamo abbassare i pantaloni e darglielo. Cioè, Martinandi, poi voce di pakistani, cioè di tutto e di più nel nostro lavoro ce n'è. Rompiscatole, la destra manca. Cioè, beh. Claudio, vado a fare una piccola serenata un attimo, ritorno subito in bagno. Yeah. Ehi, ehi, Giulio, va bene, va bene. Ancora in tutti i settori così, non pensare che sia diverso dove lavori tu o quello che abbiamo fatto noi. In tutti i settori ci sono pretese, ci sono disagi, ci sono reclami, c'è di tutto, c'è di tutto. Io lo sai, non è che, però conosco molto bene il settore lavorativo a livello generale, perché grazie a Dio ho affrontato qualsiasi tipo di cosa, però in tutti i lavori è così, ma io spero che si riprenda, adesso vediamo il 7, la partenza che ci sarà con un nuovo aumento delle elezioni, adesso mia figlia di lunedì va a pulirsi il bar, a rimettere un po' corto, a ricaricare un po' la situazione, e poi riapro dopo l'epifania, giovedì riapro, vediamo com'è la situazione. Sta fatto un po' che è una disperazione totale. Abbanda l'indiria nei tutti i canti, per carità. Guarda, cioè, noi stiamo dando, cioè la bomba da 10 la stiamo dando, 20 e 3 euro portati a casa, 23 portati a casa, no, non li va mai bene. A poco lavoni in casa di 10 euro lavoni, cioè un bene è abbastanza onesto. Ah, sempre si lamentano, cioè. Non si capisce niente. Sono sempre lamentando i soldi clienti, se mangiare si stanno lasciando, se ne vuoi pigliare i bigli, se no, ciao. E poi c'è quello di Ultra Gas Point, beh, da niente affidabile. Chi si scatta all'ora non te ne arricchiano più. Poi c'è, però con i prezzi appena più bassi di te. Vabbè che loro sono la ditta, però cavolo, cioè. Ah, non si può tirare davanti. Grazie a Dio stiamo lavoricchiando, perché cioè, certe cose le stiamo anche lasciando perdere, se la vuoi così, se no ciao. Cioè. E che ditta è questa? Cos'è? Una ditta nuova, cos'è? Questo di Piano del Sole, Ultra Gas Point. Sono ritornato, eh? Ah, sì, Gio, Ultra Gas Point. Ah, sì, ho capito cos'è. E vabbè, chi si mangia, già in basso la macchina. Ok, dai, io ridò il cambio a Giulio e inizio a prepararmi, sono già le 8:10 che aspetta il passo anche Filippo, se non sta piovendo lo porto un po', vediamo. Pupo. Ok, qua, d'accordo, dai, e anch'io fra un po', intanto sto aspettando la chiamata dalla tavernetta per la cena, sono già le 8 meno 10, sì, in effetti meno 10 giusti, per cui ecco, sono i minuti ancora. Ci sentiamo allora eventualmente domani qua. Ciao, grazie per la chiacchierata, buona cena e a risentirci. Avanti a tu. Ciao, buona cena e buon tutto. Devo fare una domanda a Giulio. Avanti qua. Dimmi a tu. Ma chi sono i veri vicino, chi si mangiava in pari con un cane? Si è trasferito. Quello che abitava vicino a me, cioè vicino alla Falegna Media. Di quale stai parlando? Sì, ma in via Mazzini mi pare. C'era scritto il calzolaio pure lì. Sono passato in via Mazzini e ho visto una scritta del genere. Io penso che sia niente. No, quell'altro falegname che c'era accanto a me era Brucchi, Antonio Brucchi. Ma ci mancava da molti anni. Io c'ero ancora e lui aveva già chiuso. Ma quello, senza nessuna presunzione, devo dire che ha fatto un errore grandissimo a mettersi a fianco a me, perché io tutto sommato l'ho distrutto, nel senso che io c'ero da molto prima lì, la gente conosceva me, venivano, la maggior parte delle persone venivano da me, per cui no, e abita lì, abita nella bretella del latte dolce lì, no, abita quella zona lì, anzi diciamo che da poco tempo poveraccio è diventato anche vedovo, perché aveva la moglie che era malata ed è morta, e adesso è solo, e poi è anziano, è abbastanza anziano, ha 87 anni e adesso vive solo, vive, non, perché i figli sono tutti quanti sposati, per cui lui si ritrova da solo, purtroppo è così, non so se stavi parlando di quello. Che mangia il cane, se con papitelli, chi sui tanti latte notte? Un cazzo d'altro, buonasera a te. Ok, ho capito, no, quello lì lo stesso, ha chiuso da molto tempo, ha chiuso anche prima che chiudessi io, no, quello lì non c'è più assolutamente, anzi, diciamo che non c'è più nemmeno il palazzo, anzi, lì hanno demolito il palazzo, perché la proprietaria della palazzina e dunque anche del magazzino dove c'erano loro, aveva venduto, in quanto è deceduta anche, tra l'altro, che i figli hanno venduto, una donna che ha raggiunto i 101 anni, signora Amelia, buon'anima, ed è morta un paio d'anni fa, è morta, hanno venduto e stanno costruendo un palazzone, c'è un'impresa lì che sta costruendo un palazzone, diciamo che è già abbastanza avanzata come costruzione, anche se al momento è sospesa, però c'è una bella costruzione. Capa, no, ma secondo me si sono trasferiti, perché c'era sempre la scritta del calzolaio, l'ho vista in via Mazzini, l'ho visto. Secondo me Virane ancora ci sono trasferiti, non ci ha fatto un locale. No, assolutamente. Intanto lui, il vecchio, cioè il padre di quei ragazzi, è sempre a letto, perché è malato, eccetera, eccetera. Già da qualche anno è sempre a letto, si alza così ma a fatica, per cui non sta più lavorando, assolutamente. Poi i figli, non lo so, uno è mezzo giunato, quello più grosso, quello lì è sempre più pinghioso, però è sempre in giro, no? L'altro non lo so, l'altro è là, non lo so, saprà trovato un lavoro, saprà trovato, non te lo so dire, dopo è finito quello. L'altro ancora è sposato in un paese, dopo che aveva scontato la pena, perché era stato carcerato a causa del traffico di droga, eccetera, si vede che ha scontato la pena e si è sposato con una ragazza in un paese, e vive in un paese, non mi ricordo quale paese è, però diciamo che ormai non hanno nessuna attività loro, almeno che non c'è quello più basso di tutti, si chiama Mario, mi sembra, a meno che quello era quello che lavorava insieme al padre, perché l'altro non era capace per niente, e dunque ha probabilmente cercato un altro lavoro, perché era fidanzato, in qualche maniera dovrà campare, no? Capa, e chi so era? Sì. Chi era che voleva entrare? Avanti. Allora, c'è Giulio, c'è anche Antonio. Uno è gay, uno di quei figli, capito? Che si teneva uno di quello vicino a casa. Si teneva. Ok, saluto anche Claudio, è andato via, porta il telefono. Avanti, Giulio. Ok, ciao Mari. Sì, abbassa un tantino perché hai qualche piccolo disturbo. Stavo dicendo, sì Maria, in effetti hai ragione, ma è quello appunto che è stato carcerato, che era ammantato con quello geometra che abitava nella strada dove abitavi tu prima, in quegli anni lì, già me lo ricordo. E dunque, siccome quello là era uno spacciatore, lui aveva fatto lo stesso mestiere, aveva fatto, poi l'avevano scoperto, l'avevano carcerato, l'avevano, però non mi sembra che era a Isidi, una cosa, insomma nella colonia penale, e poi però ha scontato la pena, si è sposato, so che si è sposato e vive in paese, non so quale paese sia, ma più o meno in quella zona lì, dalle parti di Isidi, penso che sia quello, Maria, avanti. E se già quello lì, sì. già quello lì era con quel geometra, una specie di geometra, era una specie di geometra quello lì era, per carità, meglio rotta. Bene, vera, allora anche tu, buonasera lì. Buonasera anche a te, buonasera. Che nome che è di Radabalag, per carità, che fine che ha fatto? La fine che ho fatto? Dove va? Chi sarà Pinghinoso, chi sarà il prigionetto, ohia! Allora, di... cos'è? Cagagliato si chiamava, no? Tu? E te sono giù! Cagagliato di giù si chiamava, già lo sai, no? E già in corsincia, e poi così incazzo sei venuti! Infatti era gente di basso rango, Marie, tu pensa che la moglie, cioè la madre di quel ragazzo, di quei due ragazzi, anzi di tutti e tre i ragazzi, no, aspetta, sto sbagliando, la madre dei due più piccoli, non di quello grosso binghiroso più di tutti, quello era figlio della prima moglie di quell'uomo, perché quell'uomo era stato sposato prima con un'altra donna e l'aveva lasciato perché era binghiroso buluedo, un luabo più binghiroso di Rubiglioso, Rubiglioso più binghiroso di luabo, e se n'era andata a Torino la prima moglie. Infatti mi sembra che avesse roba di 11 figli di Buemadina in tutto, tra la prima moglie e la seconda moglie, e poi era morta quella donna ed era una che abitava, come si chiama quella zona, la Viddazza, se ricordo bene, in Corso Trinità, dove c'era la volta Tullietto, il barista, la chiesa, appena più giù non c'è quella specie di porticato, entrava lì dentro, abitava lì dentro, la Viddazza, una donna che diciamo che a quanto sembra, poi questo non lo so, non era molto tranquilla, era un po' leggera in gioventù, per cui poi ha conosciuto Luca Solaggio, che poi tra l'altro come primo mestiere era parrucchiere, e si sono messi insieme, non so se si siano mai sposati, anzi no, non si sono mai sposati, anche perché, sai perché te lo dico, perché una volta mi aveva chiesto se io gli facevo la testa al matrimonio, che si sarebbero sposati, avrei fatto la testa, e ho detto no, guarda, mi dispiace, ma no, non ho nessuna intenzione di fare la testa ai mariti, gli ho detto così, c'è il tondo. Il tuo coraggio ci voleva giù, per carità, e il coraggio di lì abita sulla sua genere, perché guarda, meglio nulla, guarda che gira sono più puliti, i soviaco e ma quelle signali invece i soviaco via l'uvigliolo, perché è meglio nulla, oioia, cagagliati, allora c'è tu. Già me lo ricordo già, mi pare che era messo su Sinca la mamma di Vincenzo, già me la ricordo io quella donna, è morta un po' di anni. Ciao Mari, che sono da portare il cane, un abbraccio, dai, allora li ho già salutati. Sono ricambiato Claudio, tutto ricambiato al centro, sono in casa, ci accentiamo, vai tranquillo. Ok, un altro mio. Vabbè, comunque. No, poi sai con cui frequentava molto quel Mario o Antù? Andava sempre, quasi tutti i giorni, andava in laboratorio, in cartoleria da loro, ci andava Falcone. Falcone, infatti andava molto spesso Falcone lì, quasi tutti i giorni andava, rimaneva ore e ore seduto lì in cartoleria, se vuoi immaginare, si è andata di compagnia allegra ieri, ma che ne dai, vabbè comunque, anche loro sono dei poveri diavoli. Lui è adesso poveraccio, il vecchio è sempre ammalato, è sempre a letto e dunque non si alza solo magari per necessità, che so io, per pranzo oppure per andare in bagno, però la maggior parte del... Arrivo subito! La maggior parte delle ore della giornata rimane a letto. Questo è quello che mi ha detto il figlio, questo buzzinoso grosso, Antù. Dai, vi saluto che mi hanno chiamato per la cena. Ciao Antonio, grazie della chiacchierata, ci sentiamo domani se coincide. Ciao Marino, salutoni a te e auguroni anche. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, ciao Marino, saluti in casa, ciao, riprendi. Giulio, tutto è cambiato al 100%, non fate, va tranquillo, vai, buona cena e nuovamente saluto in casa. Avanti a tu. Ciao, buona cena, Giulio, buona cena. Saluto in casa. È un periodo si fa dire una battaglia e cioè, io abitavo vicino che avevo il baracchino in Gendia, cioè, prima cominciava uno pesce ricca cagaia, noi si mangia in muraglia, da così cominciava e fine di baruguro, era una lotta, era tutti i giorni. Ci pigliavano i baruguro, era una lotta incredibile, ci pigliavano. Cioè, eravamo qua, me lo ricordo come se fosse oggi. Sempre così erano. La famiglia, quando vuoi fare purtroppo, erano tutti la centralina sbagliata. C'avevano la centralina sbagliata, non venivo da là. Bene, tanto io, guarda, se mio nipote mi sta chiamando, ti ne approfitto, dai. Ci sentiamo domani, buona carica. Ciao tu in casa, tanto a domani, dai. Ciao tu, tu sei il contone per me, come vesti, dai, tu. Cappa. Ok, dai. Ci sentiamo alle prossimine, ci sentiamo. Ciao Mari, mi ha fatto piacere. Che tanto già sai, stamattina abbiamo fatto un piccolo chiacchierata. Sarete come state? Allora come ho fatto un po' di compagnia, se no mi vediamo volendo, dai. Ok, ciao a tutti di nuovo, buonasera, buonanotte, ciao ciao. Ciao ciao, abbiamo fatto una risata, ci siamo fatti. Certo, lo so, ma ci vuole, dai. E che non crepia. Ciao a tutti di nuovo, ciao. Ciao, tanto già me ne è poco niente da piglia a fare un culo, Giulia. Ciao. Ciao, ho fatto qualcuno? C'è nessuno, buonasera. Buonasera anche a lei, cari. Sapete, Antù, cosa vuol dire a lei? Scappa. Mamma mia, tu sei Mari. Mi sono vedendo, niente, ma non c'è nessuno. Ciao. Ah no, avevo fatto una chiamata, avessi me ne rimasto anche uno. Ascolto, ci saranno 2000 persone in ascolto. Ma è già una cresciuta qua. Ormai siamo anziani, Antù, a quest'ora tu sei a letto. Affa, sono 3 milioni. Ok, dai, ti lascio, Mari, dai, ci risentiamo. Ciao, di nuovo, ciao.